ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Troppo forte rispetto alle altre, eppure la sua squadra nell'ultima partita ha perso. La gente non sa di cosa parlare. Se fossi davvero tanto forte, oggi non avremmo perso. Troppo forte, hanno detto, perché Tiffany Pereira, 1,94 m, brasiliana, 32 anni, fino al 2013 era un uomo e si chiamava Rodrigo. E lei l'ultimo acquisto del Golem Palmi, club della Serie A2, finito al centro di una bufera mediatica proprio per le presunte disparità tecniche della nuova schiacciatrice rispetto alle colleghe. C'è stata proposta una giocatrice, chiaramente poi quando l'abbiamo vista abbiamo capito che c'era una storia dietro, abbiamo studiato i regolamenti, abbiamo visto che i regolamenti permettevano questo tipo di operazione, il giocatore ha qualità tecniche importanti, abbiamo deciso di andare avanti. La pallavolo era già il mio lavoro, non sapevo se dopo il cambio di sesso avrei continuato a fare questo mestiere, ma grazie a Dio dopo tutti i controlli ho ricevuto l'autorizzazione per poter continuare a giocare. La storia l'avete sentita riassunta da questo servizio della Sette. È la storia di una pallavolista che si è presentata per licitamente partecipare al suo sport, si è posto il problema, il dilemma sul fatto che in origine anagraficamente fosse stata un uomo. È un tema che indubbiamente merita di essere approfondito e per approfondirlo ci vogliono gli strumenti culturali giusti, la giusta capacità di leggere la contemporaneità. Faccio una premessa: perché parlo di questo argomento? E oggi mi astengo dalla solita disquisizione sul Covid, non perché non ci sia un'emergenza, ma perché mi è arrivato ieri un comunicato stampa del movimento Pro Vita e Famiglia. Mi continuano a mandare comunicati stampa, mi danno stupende occasioni di riflessione, che annuncia una manifestazione, ci sarà domani a Roma, a Piazza del Popolo, una sorta di manifestazione in opposizione al DDL Zan sull'uomo transfobia, ma in particolare pongono come rafforzativo della loro presenza di difesa della famiglia tradizionale il fatto che ci possa essere un problema sollevato da varie persone, partendo da un esempio concreto, i 200 femminili campionati italiani master di Arezzo, il transgender Valentina Petrillo ha conquistato l'oro, battendo due velociste di valore internazionale. Ora, se passasse questa legge, nessun giornalista potrebbe parlare di questo. Perché? Perché sarebbe discriminato. E quindi tutti in piazza a protestare, a difendere la famiglia tradizionale, perché nessun giornalista può parlare del fatto che si possa aprire un dibattito sul fatto che persone transgender abbiano il lecito diritto di partecipare a uno sport, ma lo sport, lo sappiamo, ha delle categorie ben precise, maschile e femminile, e quindi bisogna ragionarci. Noi ci evolviamo, cambiamo, siamo altre persone. Forse chi fa questi ragionamenti dovrebbe, a un certo punto, sarebbe l'ora, rivendicare il format della famiglia tradizionale. Diteci qual è la famiglia tradizionale, registratela alla SIAE, all'ufficio brevetti, dite voi siete quello. Famiglia tradizionale cos'è? Un uomo e una donna perfettamente condizionati in maniera inequivocabile nel loro genere. Si sposano cristianamente, hanno degli atti sessuali, posizione del missionario, mettiamoci che siamo più sicuri, soltanto finalizzati alla procreazione, fanno dei figli e vigilano per tutta la durata della loro vita che i figli non abbiano uscite affettive, sessuali e di qualunque tipo da quello che è l'ordine costituito che li fa nascere, o maschio o femmina. Ecco, brevettate questo modello e lasciate libertà agli altri di vivere quella che è la nostra evoluzione. Noi ci evolviamo, cambiamo, cambia la nostra conformazione fisica. Se vogliamo creare un modello biologico, genetico, comportamentale nella nostra catena evolutiva, a quale ci riferiamo? No, io potrei dire, per me il modello secondo natura è il protozoo. Chi non è un protozoo esce dalla natura. Oppure potrei dire, vorrei essere un uomo di 150 milioni di anni fa. Avevamo ancora il baculum, l'osso penico. Perché? Perché eravamo poligami di natura e ci serviva qualcosa di sempre efficiente. Ecco, non esiste un modello di natura. La natura si evolve e si adatta. Si evolvono e si adattano anche i modelli. Quindi oggi, con serenità, una persona come me, che non ha strumenti culturali approfonditi per parlarne, si rivolge a chi ha più strumenti di me e voglio capire esattamente se c'è un problema, qual è il problema, cosa si muove nel mondo di fronte al fatto che ci sono degli sport in cui partecipano persone che avevano un genere anagrafico d'origine diverso. Un atleta vince un record, le altre dicono sì, però tu nascevi uomo, sei avvantaggiata, hai muscoli più forti. È vero questo? Non è vero questo? Esiste una possibilità di adeguare il nostro pensiero, il nostro livello di civilizzazione a questa nuova modalità di fronte a quale ci vogliamo porre? Per fare questo, dicendo, essendo io molto ignorante e dovendomi formare comunque una cultura in questo senso, chiamo un collega che ne sa più di me. Antonia Caruso, buongiorno. Buongiorno, sono una collega, volendo. Sì, sì, collega in senso già, una collega, va bene. Ho già detto, la prima cosa ho detto una cazzata, brava. Attivista, no, transfemminista. No, volevo iniziare così, in simpatia. Sì, ma collega chiamo tutti, c'hai ragione, comunque c'hai ragione. No, sì. Collega. Va bene. Allora, Antonia Caruso è un'attivista, transfemminista. Ti presento bene. Hai studiato cinema, fotografia, semiotica tra Roma e Bologna. Al momento scrivi prevalentemente di cose trans. Hai dato un progetto, Universi Trans, collabori con varie associazioni LGBTQI, hai aperto una casa editrice, si chiama Edizioni Minoritarie, si occupa di formazione, su temi trans e comunicazione. Vedi com'è difficile se non si studia e non si approfondisce e non ci si ripete ogni giorno che il mondo sta cambiando, con tutta la buona volontà essere adeguati a questo momento della nostra trasformazione? Ne parlo sulla prima cosa che ho detto io. Devo dire che il discorso è molto ampio. Quella prima cosa che dico è che comunque l'esperienza trans, l'identità trans inizia a essere presente nella società, diciamo, in maniera consistente negli ultimi anni. Quindi posso capire che c'è una parte di persone che vivono nella nostra società occidentale che non hanno gli strumenti e non sono preparate per riuscire a decodificare questa cosa, perché gli schemi che c'erano fino adesso sono evidentemente non adeguati. E il tipo di strumento che fino adesso c'è stato è stato prevalentemente quelli medici, e qui dopo mi ricollegherò al fatto dello sport, e quelli legali. Quindi tutta l'esperienza trans viene, si può dire una persona trans solo se ci sono determinati criteri, e soprattutto a livello di patologizzazione psichiatrica, perché fino a ancora adesso l'esperienza trans è un'esperienza patologizzata sul piano psichiatrico, nel senso, per accedere alle cure serve una diagnosi di un certo tipo che costa un tot di soldi a seconda dei posti, e senza quel tipo di diagnosi, quindi che viene fatta da specialisti, non si può accedere alle cure, e questo quindi è già sia una discriminante rispetto alla propria esperienza, perché ci sono persone trans che non si definiscono e possono definirsi trans anche senza voler fare un percorso di medicalizzazione, come si dice. Cioè, è un termine che in sé oramai non è più sufficiente a definire comunque l'identità, l'appartenenza di genere, perché leggo bigender, pangender, genderqueer, gender fluid, ce ne sono tanti, volendo. Però, visto che in Italia ci sono anche dei master universitari che di questo parlano, proprio perché la cultura si possa adeguare e possa capire. Quindi, secondo me, non è così impervio capire cosa sta accadendo nel mondo. Trovo sinceramente strumentale che domani delle persone vadano lecitamente a manifestare il loro pensiero, però portando come pretesto il fatto che nessuno potrà più parlare di certe cose. Io mi sembra che ponendosi dal punto di vista della modestia di chi non ne sa nulla, che vuole capire, tutto può essere trattato. Riesci in qualche maniera a farmi capire cosa sta accadendo nel mondo dello sport, citando varie situazioni, proprio per il fatto che ormai ci sono persone che hanno tutto il diritto di fare uno sport che a loro confermi e raffermi la sicurezza dello stato in cui si trovano? Beh sì, intanto appunto il problema principale, che secondo me bisogna un po' vedere la questione da un altro punto di vista, cioè gli atleti e le atlete già professioniste che fanno un cambio di genere, perché non devono, come dire, dal momento che è la loro, anche la loro professione, perché non si debba trovare una soluzione a questa soluzione? E questo è il primo problema. Io penso che tutto si possa trovare una soluzione, è l'atteggiamento con cui ci si pone. Se già lo poni come un problema che implica discriminazione, chiaro, non la troverai mai. Direi le categorie due, non è possibile. Cioè, nel senso, se già si pone la questione tipo che un problema è irrisolvibile, appunto, come detto, non si va da nessuna parte. E il problema dello sport è che entrando in quel tipo di sistema, diciamo appunto medico, di cui parlavo prima, che ha dei criteri molto, molto, molto specifici, quindi tipo ad esempio i valori ormonali nel sangue, qui poco che ho un po' approfondito, che è il livello di testosterone che indica la possibilità di partecipare nell'una o nell'altra categoria di uno sport. Al momento. Sì, perché il testosterone è quel tipo di ormone che si usa nelle terapie ormonali sostitutive. Vorrei ricordare che le TOS o terapie ormonali sostitutive vengono usate da delle persone trans, ma vengono anche usate dalle persone cisgender, cioè molto, come dire, sinteticamente le persone non trans, quando diciamo sono super donne che possono avere il testosterone alto, ecco, questo è il fatto, ho radicalizzato, è così? Sì, cioè volevo finire il fatto che comunque quando si va in menopausa e in andropausa si possono usare gli stessi tipi di farmaci. Quindi non è una prerogativa, solo, come dire, il cambio ormonale solo delle persone trans. Il punto è che la questione che viene, come dire, posta è che le donne trans hanno una maggiore forza muscolare derivante dal testosterone. Il fatto che comunque abbassando il testosterone con dei farmaci apposta che si usano appunto in questa TOS, il testosterone viene abbassato a livelli, diciamo, medi di una donna cis. Questo comporta delle modifiche a livello corporeo, soprattutto la perdita di massa muscolare. Ecco, tu dici, quindi non è che rimane uguale. Il luogo comune che si immagina dei nerboruti atleti che passano a transizione, continuano a essere nerboruti e vanno a partecipare con le donne, naturalmente sono avvantaggiati. Questa è un po' la semplificazione che viene fatta. Allora, intanto do il numero di telefono, 800240024. Ho già qualche ascoltatore in linea, comincio a sentire il parere, il sentire delle persone. È un tema, mi rendo conto, difficile da affrontare. È un tema che richiede l'acquisizione costante di strumenti culturali che non è detto siano sempre così facilmente acquisibili, o perlomeno si abbia possibilità ogni giorno di averli. Quindi bisogna studiare per capire come cambia il mondo. Alessio, buongiorno. Ciao, ciao Gianluca, come stai? Sì, avanti. Senti, qui è un tema medico, è un tema medico sportivo, non è un tema, come si dice, di gender o di cose. Però quello che stiamo cercando, scusami Alessio, non ti voglio interrompere, quello che stiamo cercando di far capire che la sola definizione medico-sportiva non è sufficiente a racchiudere in sé la complessità di un tema che ha anche altri aspetti. Questo ci stava cercando di far capire la nostra ospite. Dimmi il tuo parere. Tu ti ricordi ai tempi delle ginnaste dell'Europa dell'Est, che è quello, certo, quello che facevano, quello che dice l'ascoltatrice di prima, la signora che c'era prima, prendevano ormoni per dare prestazioni e sollevavano pesi a livello incredibile, quindi battevano. Sì, era una cosa ben diversa, altre... ricordi, era un'operazione tipica di un regime dispotico dittatoriale, prendevano delle bambine, le bombardavano contro la loro volontà di ormoni, facevano delle macchine da guerra, creando gli anche grossi problemi. Qui sono persone che fanno una loro scelta profonda, sofferta. Ma tu pensa di prendere un uomo che fa sollevamento pesi ed è un olimpionico di sollevamento pesi. Questo cambia sesso, prenderà anche gli ormoni, ma la sua prestazione fisica è certo non sarà paragonabile a quella di una donna. Ci stiamo ponendo proprio il problema. È una questione medico-sportiva, ovviamente. Se parliamo di scacchi... Sì, ho capito, ma radicalizzato è semplicemente così il problema. Se semplificato è così normalmente. Stiamo cercando di capire poi, ogni problema ha un'infinità di sfumature di cui bisogna prendere atto e considerare, mettendosi anche nella condizione, nella soggettiva della persona che è protagonista di questo passaggio, di questa sua scelta, capito? Fermiamoci un istante e poi riprendiamo chiedendo appunto alla nostra ospite di commentare la telefonata di Alessio, che mi sembra che racchiuda il primo approccio generale che tutti hanno di fronte al porre questo problema, o meno porlo come un problema. A tra un istante. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Melog 800240024. Prendo subito due ascoltatori, perché al di là di quello che non stiamo dicendo, vedo che l'approccio medio del pubblico, ma anche comprensibile, è un approccio di tipo clinico, di tipo tecnico. Quello che sto cercando di capire rispetto alla domanda che ci facciamo sulla possibilità di persone in transizione o transessuali di effettuare uno sport, al di là delle rigide categorie maschi e femmine che esiste in tutti gli sport, è un tema da approfondire, ma non soltanto da un punto di vista strettamente clinico. Sentiamo Pierluigi però. Pierluigi, buongiorno. Buongiorno, sono un medico, un endocrinologo per essere esatti. Io proprio ho lavorato parecchio sul problema della fisiologia ginecologica. Allora, premetto che dal punto di vista ideologico io sono molto pro transgender, anzi ho anche simpatia per il coraggio di gente che voglia affermare la sua diversità. Però la signora con cui aveva parlato prima, dal punto di vista ci sta ascoltando Antonia Caruso, ricordo attivista transfemminista, editrice, esatto, una casa editrice, esatto, che si chiama Editrice, allora, Minoritaria, è diciamo la persona esperta, esatto, che mi sono affiancato a parlare di temi di cui conosco più. Esperta un ciuffolo, se mi permette, perché la signora forse la pregherei però di avere un linguaggio, un atteggiamento diverso. Sì, se anche lei è un medico, allora, certe espressioni le lasci a chi li parcheggia la macchina, capito? Nel sì, parcheggio, sì, del suo ospedale, sì, scusi. Ero molto affettuoso in questo senso. Sì, ma a me questa affettuosità non mi commuove. Prego, vada avanti. La mia simpatia per chi ha il coraggio delle sue opinioni, però sì, non si lega a chi vada dice cose punto, non esatte dal punto. Allora. Anzitutto il testosterone non è attivo se non viene tetraidrogenato, e questo avviene nel maschio dal punto di vista non fenotipico ma genotipico. Quindi, sì, ma lo traduca per noi poveri ignoranti, cosa vuol dire? Qual è il senso? Se io prendo una donna e sì, le do una quantità importante di testosterone, se lei, sì, non ha il metabolismo, non ha gli strumenti per trasformare questo testosterone in un qualcosa di attivo, più attivo, la sua massa muscolare crescerà sì, ma non più di tanto. Esattamente il contrario di quello che succedeva nelle sindrome di Morris. Noi siamo coetanei, lei ricorda le gemelle presse? Quelli erano due morsi, cioè erano due maschi che per ragioni complesse non esprimevano il fenotipo femminile maschile. Siccome ho poco tempo, vorrei che lei mi dicesse in un concetto cosa vuol dire lei. Cosa vuol dire lei? Voglio dire in parole molto povere il suo contributo. Il transgender maschio che diventi femmine mantiene il suo metabolismo che gli permette, malgrado faccia terapia sostitutiva. Quindi vuol dire forte come un uomo, questo vorrebbe dire lei? mantiene le sue capacità muscolari maschili in gran parte, quindi è dal punto di vista è più forte. Questo, ma dillo questo. Per Luigi ci dice, per quanto si facciano terapie ormonali, secondo per Luigi, che è un medico endocrinologo, comunque l'atleta rimane con un vantaggio rispetto alle altre atlete che competono con lei. Antonia Caruso, vediamo il suo punto di vista. Non volevamo portarla su un piano squisitamente medico, ma se la percezione media delle persone è questo, affrontiamolo con gli interlocutori che ci pongono delle domande. Antonia Caruso. Beh, intanto grazie. Intanto quello che si può notare è che comunque entrambe le telefonate hanno una forte transfobia esplicita e implicita, è questo, ed è quello esattamente quello di, che voglio dire, nel senso che ti dicono un ciufolo, poi ti dicono mi stai simpatica, ti voglio bene, sì, cioè io appunto della simpatia, anche del, come dire, dell'appoggio, del coraggio dell'endocrinologo non ci faccio nulla, comunque vabbè. Che comunque il discorso medico va bene, ma comunque si va a inserire su un discorso culturale e sociale che è sempre transfobico, e quindi anche l'esempio che ha fatto, se non mi ricordo male, il primo ascoltatore, Alessio, sì. Già il prendere in considerazione, cioè il prendere l'esempio di un sollevatore di pesi che ha preso proprio l'esempio peggiore che si poteva fare, però, perché scusa Antonio, ci può stare, se un sollevatore di pesi vuol farlo, sì, fare, certo, penso. Però fra tanti quelli che si potevano, ha preso l'esempio più estremo proprio per portare, come dire, credito, anzi portare discredito a questa cosa qui. Però mi sembra finora che si parla di pallavolo, di corsa, di atletica, queste sono le cose su cui si è sviluppato il dibattito, mi pare. Sì, più o meno anche adesso in Irlanda si parla anche di rugby e così. Sì, rugby, sì. Sì, cioè ovviamente ci sono delle caratteristiche fisiologiche che sono diverse, però appunto porla continuamente sul piano medico senza considerare che c'è appunto un piano di transfobia conclamato. Mimetizzata, diciamo. Certo. Sì, cioè nel senso che è quello il problema principale. Poi cioè, medico posso dire una cosa, Antonia? Poi ridammi la seconda bacchetta. Certo. Io trovo divertente e stimolante che esista questo dibattito, perché mi piace pensare che si muove qualcosa in un'attività che è immutata dai tempi dei giochi olimpici. Finalmente si cambierà qualcosa, ci si porrà qualcosa di diverso. Che ci siano questi binari fermi, immobili, intoccabili, lo trovo anche abbastanza noioso, almeno ce lo poniamo in maniera diversa. E ci sarà l'atleta che avrà il sospetto di essere più forte degli altri perché in un'altra vita era un uomo, probabilmente. Sentiamo Jonathan, così confermiamo il trend del pubblico. Jonathan, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ma io ritengo che il suo collega con cui stiamo parlando, il suo collega giornalista, la ragazza che stava parlando prima, però sì, una collega, non faccia il mio... No, pensavo che fosse proprio il collega, che ci fosse proprio la polemica su questo. No, comunque, quello era un medico, quello che ha parlato era un medico. Andiamo avanti, Jonathan, vuoi dire? Io la penso esattamente come il medico, nel senso che io sono un osteopata anche laureato in scienze motorie, ci sono delle differenze biomeccaniche fra l'uomo e la donna che sono incolmabili. Quindi, secondo me, è questione di libertà. Il transgenico può fare tutto lo sport che vuole, ma ben venga, ci mancherebbe, però purtroppo non può farlo, secondo me, a livello competitivo professionale, perché va a ledere la libertà invece a questo punto delle donne o dell'uomo, perché può succedere il contrario anche. Il tema è questo, Jonathan. Io penso che nessuno è così ottuso, non... aspettami Jonathan, di dire no, cambia completamente tutto e c'è un reset totale di ogni cartilagine del corpo. Lo sappiamo tutti. Il tema va visto in termini quantistici, diciamo così, se riesco a far capire. Esistono altre dimensioni oltre quella apparente che è soltanto puramente tecnica, che per ora è stata tentata di risolvere con il tasso di testosterone, ma si è visto già che non basta. Bisogna cercare di capire se il mondo che sta cambiando entrano in gioco altri fattori che portano a determinare alcune scelte. Antonia Caruso, vedi, continuiamo a ribattere sempre sul piano fisiologico. Penso che nessuno possa contraddire il fisiatra, non so bene cosa sia l'osteopata, che a livello di ossa, di cartilagini e di collegamenti comunque sia, rimane quello di una potenza diversa, o sbaglio? Beh sì, nel senso, io non sono un medico, quindi non posso contestare, sì, però quello così che potremmo andare avanti all'infinito se ragioniamo su questo termine. Non c'è questo, sì, cambio radicale di mentalità, o sbaglio? No, perché il cambio, come dire, si ragiona ancora in maniera di maschio e di femmina, usando tra l'altro continuamente i pronomi sbagliati, ma quello è un altro discorso. Comunque, se prendiamo l'esempio della box, ci sono ad esempio delle categorie di peso, e quindi non facendo gareggiare una persona di una categoria con una della categoria come dire, superiore, è un modo di gestire una differenza fisiologica fra atleti. Quindi nella box non si porrebbe questo problema, paradossalmente. Sì, perché come dire, è un adattamento rispetto a delle fisiologie diverse. Se peso più, ma se peso più, ma se peso massimo, se peso massimo, esatto. E puoi competere. Nessuno può dirti, sì, ma quindi, tu c'hai muscoli più forti, non, assolutamente. Cioè, uno di 70 kg non può competere con uno di 110, per dire, faccio lo semplifico. E lì c'è stata, come dire, una riflessione su diverse tipologie di corpi. Allo stesso modo si può fare un tipo di differenziazione, dico, ipotetica, rispetto ad atleti e atleti trans. Cioè, creare delle fasce. Quindi dovrebbe cambiare radicalmente. Vediamo se, sì, ho capito bene. Il criterio di classificazione delle categorie che gareggiano, non più maschi e femmine attraverso una linea invalicabile, ma magari come nella bosca il criterio è il peso, il criterio è creare dei parametri che possano permettere anche a tutte le persone di partecipare a quel tipo di sport. Questa è la sintesi? Sì, è un'idea, nel senso che non bisogna cambiare proprio appunto i cambi di mentalità anche rispetto alla categorizzazione rispetto al corpo. Sto cercando di tradurre in termini che capisco difficili a digerire al pubblico medio che mi ascolta tutti i giorni quello che stai dicendo. Mi sto profondamente convincendo che questa mutazione che stiamo vivendo tutti negli ultimi 20-30 anni, che parte da una nostra dimensione digitale, da una diversa collocazione della nostra coscienza in qualcosa di corporeo, di fisico, cambiano le dimensioni dello spazio, del tempo, della relazione, del perimetrare lo spessore delle persone in cui noi ci confrontiamo, deve fare anche questo passo ulteriore, capire che anche qualcosa sta cambiando nella definizione netta e manichea dell'essere maschio e dell'essere femmina. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, grazie a Carmelo La Ruicella, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera che mi assistono in questa trasmissione. Per me devo dire difficile, ma interessante, perché capire, avere elementi per leggere la realtà attraverso strumenti nuovi che permettano un reset di molte proprie convinzioni, di pensieri stratificati, anche se noi ci riteniamo civilizzati da un punto di vista esteriore, perché abbiamo letto e siamo rispettosi degli altri, in realtà la civilizzazione, cioè la comprensione radicale del tempo in cui si sta vivendo, è un lavoro difficile. Occorre impossessarsi di strumenti culturali, non bastano le linee di pensiero esteriori. C'era una telefonata che è caduta, pregherei di richiamarla perché era una storia interessante. E continuo quindi con Antonia Caruso, attivista transfemminista, editrice, ha fondato la casa editrice Edizioni Minoritarie e sta facendo il suo lavoro, sta cercando di comunicare e di trasferire cultura in un mondo che logicamente non è a tutte le latitudini pronto ad acquisire questo cambiamento. Mi dici dove sta accadendo comunque che si pone il dibattito? Noi abbiamo citato le squadre di rugby, abbiamo citato l'episodio italiano. Negli Stati Uniti c'è un movimento, mi sembra ben preciso, di atlete che si pongono questo problema anche in maniera abbastanza veemente, mi pare. È questo a cui si rifacevano quelli che domani andranno a manifestare in piazza, sì, per la famiglia tradizionale. Ho letto il comunicato di Provita in cui parla di persone, di noi come persone speciali, qui non si può dire niente, cioè il problema è che la prendo da un'altra angolazione, cioè non vedendo la discriminazione è ovvio che l'attenzione che si pone su questa questione diventa una specie di attenzione speciale in positivo. In realtà quello che si vuole avere è un minimo di tutela. Ed è quello che si dice in teoria, anche nello sport. La sottotraccia è: si facciano le loro Olimpiadi, i loro giochi olimpici, le faccio fra di loro, e si crea una seconda suddivisione, un'altra suddivisione dell'umanità, capito? Ma io non sono molto d'accordo, perché qua che è difficile capirlo, è difficile trovare delle categorie per ragionare di questo. Ti confesso la mia difficoltà, anche se sono molto, molto interessato a capire bene. Se seguo il discorso che viene fatto e leggo le cose che tu hai scritto, capisco, bisogna cominciare a usare dei criteri di analisi che non sono soltanto quelli strettamente legati a categorie tradizionali. Un essere umano che ha compiuto volontariamente un passaggio così difficile come una transizione, quindi dovrà entrare anche in un momento di accettazione di essere accettato, che è molto difficile. Perché deve rinunciare alla pratica sportiva? Perché deve porsi il problema che non può più fare lo sport che faceva prima nella categoria di persona nella quale oggi si è ricollocato? Questa è la domanda. Stefano, buongiorno. Buongiorno Gianluca. A me viene alla mente, in modo anche un po' provocatorio, quello che successe qualche anno fa, quando un atleta in condizioni ben diverse, che era Pistorius, non so se se lo ricorda quel atleta. Ho scritto e disquisito sul caso Pistorius, mi affascinava molto l'idea. Dove sostanzialmente un atleta con un evidente handicap, lo so che non si usa più questa parola, ma in quel caso secondo me rendeva molto bene l'idea, di correre senza sostanzialmente le due gambe, con due protesi, gli portasse, come dire, un vantaggio fisico. Purtroppo la giustizia, quella con la G maiuscola, la giustizia sportiva da questo punto di vista è fallace, un po' come lo siamo noi. E poi Pistorius ha fatto anche una pessima fine, perché ha anche ammazzato la fidanzata. Assolutamente. Dimostrando ancora una volta che però non è che essere portatore di un handicap significa essere un angelo della bontà. Comunque il caso Pistorius è un po' diverso. Su Pistorius ci scrissi molto, era il riconquistarsi una persona che ha delle protesi, il diritto che la protesi non è uno strumento di vergogna da nascondere. Lui aveva delle protesi che nulla avevano di umano, aveva delle balestre al titanio che però lo rendevano un superuomo. Era un passaggio di una transizione verso un'umanità diversa, in cui non c'è più la necessità di avere questo equilibrio leonardesco un uomo potrebbe essere più potente se ha le gambe che dal ginocchio in giù sono fatte di titanio. Rendiamoci conto di questo, visto che tanto di protesi ce ne mettiamo tante dentro, ci mettiamo una protesi in più. Era una sfida a questa intangibilità dell'ordine naturale in questo caso. Però oggi mi sembra che sia un po' diverso il caso Antonia Caruso. È interessante però la provocazione dell'ascoltatore. Sì, sicuramente diciamo che parlando in una macro categoria che esce, se parliamo di corpi non normativi o non normali, si può parlare anche di Pistorius, però possiamo anche parlare di Caster Semenya, nel senso, se parliamo in termini di criteri medici, non si può non parlare anche della questione di atlete intersex. Cioè, perché le protesi per Pistorius saranno considerate doping, perché ci corre più forte degli altri, grazie, c'ha delle cose studiate da degli ingegneri, e grazie. Non è esattamente però lo stesso problema. No, sì, non è la stessa cosa, certo. Perché per dire il testosterone non è, come dire, il corpo di una persona risponde in maniera diversa sia a un allenamento sia al testosterone in maniera diversa, se parliamo di sport individuali. Se parliamo di sport di squadra, come dire, non esiste solo il termine medico, perché lo sport di squadra ha molte più variabili. Ho letto un tuo articolo dove lo spieghi bene, dice, non è che soltanto i muscoli che fanno la differenza, esatto, nello sport, è l'impegno, la tecnica, la qualità, sì, la voglia di vincere, il modo in cui ci si pone, in cui si relaziona al resto della squadra. Non puoi cancellare tutto questo dicendo c'hai un po' di muscoli in più quindi sei più forte di me. Esatto, cioè non è solo non si può sempre ritornare tutto, cioè nel senso c'è una, c'è un piano problematico che c'è sicuramente, che è quello del corpo, però c'è anche molto altro, perché c'è appunto la tecnica, l'allenamento e un'infinità di altre cose. Quindi corre continuamente la tensione. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, ma come se ne uscirà? Hai avuto, lo saprai meglio di me, un'indicazione generale quello che è il sentire del pubblico, anche persone non necessariamente cattive persone, che però hanno ancora uno schema ben definito. Qual è la strada per cui di queste cose si possa continuare a parlare con estrema leggerezza, come abbiamo fatto noi questa mattina? Bisogna informarsi, bisogna ascoltare le persone e bisogna informarsi il più possibile, perché io ho una posizione, un'altra persona trans ha un'altra posizione, ha un'altra esperienza, ha altre riflessioni e non solo, cioè nel senso parlare di appunto di corpi non è solo parlare di corpo trans, ma anche parlare di disabilità, di altri tipi di come dire, diversità di corpi se parliamo di sport. Però quello che dico io è sempre informarsi il più possibile, ascoltare il più possibile e non fermarsi a quello che diciamo un po' i media mainstream portano avanti come discorso, perché è molto limitato. C'è anche quello, ma non è solo quello. Allora, noi ci abbiamo provato, Antonio Caruso, questa mattina, e ribadisco qui quella che è una mia regola di vita: il reset totale di ogni propria convinzione, pronti a sovrascrivere ogni volta alla base delle proprie nuove informazioni, dei punti di vista che si acquisiscono, una propria convinzione. Grazie Antonio Caruso, grazie a quelli che hanno partecipato. A lunedì. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con SuperSite. Su Aruba.it.